se dovesse dire una caratteristica particolare di Lizzana, qualcosa di specifico. Di specifico, allora il senso di volontariato, di associazionismo che c'è, perché ce ne sono veramente tante, ruotano tutto intorno all'oratorio. E da quando è nato l'oratorio, che quest'anno mi sembra ha fatto i 100 anni, le associazioni sono cresciute, moltiplicate, e ci sono ancora tuttora. Anche lei lavorano. Fa volontariato? Facevo volontariato, dopo ogni tanto do una mano in giro, insomma, ecco, quando serve.